Ad alta voce, Valentina Carnelutti legge Pippi Calzelunghe di Astrid Lindgren, traduzione di Donatella Ziliotto, Annuska Palme Sanavio e Samantha K. Milton Knowles. Pippi si arrampica sugli alberi. Pippi, Tommy e Annika stavano seduti davanti a Villa Villa Colle. Pippi su un pilastrino del cancello, Annika sull'altro e Tommy proprio sul cancello. Era una bella e calda giornata di fine agosto. Un pero agostino che cresceva lì accanto stendeva i suoi rami così bassi che i bambini, stando seduti, potevano cogliere le piccole pere giallorosse più buone del mondo senza troppa fatica. Mangiavano di gusto e sputavano i torsoli sulla strada. Villa Villa Colle sorgeva proprio nel punto in cui la cittadina finiva e cominciava la campagna, e la via ciottolata diventava una strada. Agli abitanti della cittadina piaceva molto passeggiare dalle parti di Villa Villa Colle, perché quelli erano i dintorni più belli. Proprio mentre i tre bambini se ne stavano lì a mangiare le pere, passò una ragazzina sulla strada che usciva dalla città. Appena si accorse della loro presenza, si fermò e chiese: «Avete visto passare il mio papà?» Rispose Pippi. «Com'è fatto? Ha gli occhi azzurri?» «Sì», disse la bambina. «Di corporatura media, né troppo alto né troppo basso?» «Sì», disse la bambina. «Cappello nero e scarpe nere?» «Sì, proprio così», si affrettò a confermare la bambina. «Allora no, non l'abbiamo proprio visto», disse Pippi decisa. La bambina restò con un palmo di naso e se ne andò senza una parola. «Aspetta un attimo», le strillò dietro Pippi. «Era calvo?» «Ma no, certo che no», rispose la bambina furiosa. «Meglio per lui», sentenziò Pippi sputando un torsolo di pera. La bambina si incamminò in fretta, ma allora Pippi gridò: «Aveva delle orecchie smisurate che gli arrivavano fino alle spalle?» «No», disse la bambina, ma si voltò con aria sbalordita. «Non avrei mica visto sul serio un uomo camminare con delle orecchie così». «Mai visto qualcuno camminare con le orecchie», disse Pippi. «Tutti quelli che conosco camminano con i piedi». «Ma dai, come sei stupida, voglio dire, hai visto davvero un uomo con le orecchie così grandi?» «No», disse Pippi, «non esistono uomini con le orecchie tanto grandi. Sarebbe davvero una follia, te lo immagini? È impossibile avere orecchie così grandi, o almeno non nel nostro paese», precisò dopo un istante di riflessione. «In Cina le cose vanno diversamente. Una volta a Shanghai vidi un cinese che aveva le orecchie talmente grandi che le usava come mantello. Quando pioveva, non faceva che raggomitolarsi sotto le orecchie e se ne stava comodamente lì al calduccio. Le orecchie invece non se la passavano granché bene. Se poi il tempo era particolarmente brutto, invitava i suoi amici e conoscenti ad accamparsi sotto le sue orecchie. E mentre fuori si scatenava il diluvio, tutti quei cinesi cantavano le loro canzoni piene di malinconia. Era molto amato grazie a quelle sue orecchie. Si chiamava Hai Shang. Avreste dovuto esserci quando Hai Shang correva in ufficio la mattina. Arrivava sempre all'ultimo momento correndo come un forsennato perché adorava dormire fino a tardi e non potete figurarvi quant'era carino quando arrivava di corsa con le orecchie simili a due grandi vele svolazzanti». La bambina si era fermata e stava ad ascoltare Pippi a bocca aperta. Quanto a Tommy e Annika, avevano smesso di mangiare le pere, tutti intenti a seguire il racconto. «Questo cinese aveva più figli di quanti ne sapesse contare», proseguì Pippi, «e il più piccolo si chiamava Pietro». «Un bambino cinese non può mica chiamarsi Pietro», obiettò Tommy. «Era esattamente quel che gli diceva sua moglie. Un bambino cinese non può mica chiamarsi Pietro», diceva. Ma Hai Shang era terribilmente testardo fino a dire che se il bambino non si fosse chiamato Pietro, sarebbe rimasto senza nome. Dopodiché si mise a sedere in un angolo, si coprì la testa con le orecchie e rimase così tutto imbronciato. Allora quella poverina di sua moglie si arrese, naturalmente, e il bambino venne chiamato Pietro. «Ah», disse Annika, «era il bambino più capriccioso di tutta Shanghai», proseguì Pippi. «Era incredibilmente schizzinoso per il cibo e sua mamma era disperata. Sapete, vero, che in Cina si mangiano i nidi di rondine? Bene, un giorno la mamma di Pietro gli sedeva davanti con un piatto pieno di nidi di rondine e cercava di imboccarlo. «Su, Pietrino», diceva, «adesso mangia un nido di rondine per papà». Ma Pietro serrava le labbra e faceva no con la testa. Alla fine Hai Shang si arrabbiò talmente tanto che ordinò di non cucinare altro cibo per Pietro finché non avesse mangiato un nido di rondine per papà. E quando Hai Shang diceva una cosa, era quella. Lo stesso nido di rondine fu portato fuori e dentro dalla cucina da maggio a ottobre. Il 14 luglio la mamma di Pietro implorò che per carità le permettesse di dargli almeno un paio di polpettine di carne, ma Haishan glielo proibì. «Sciocchezze!» disse la bambina dalla strada. «Sì, proprio ciò che disse Haishan!» continuò Pippi. «Sciocchezze!» disse. «È chiaro che il bambino potrebbe mangiare un nido di rondine se solo non si ostinasse a disobbedire!» Ma Pietro tenne le labbra serrate da maggio a ottobre. «Ma come faceva a sopravvivere?» chiese Tommy meravigliato. «Infatti non sopravvisse», rispose Pippi. «Morì di vera e propria ostinazione il 18 ottobre. Fu seppellito il 19 e il 20 una rondine entrò volando dalla finestra e depose le sue uova nel nido di rondine rimasto sulla tavola. Così, nonostante tutto, servì a qualcosa. Tutto è bene quel che finisce bene», concluse Pippi allegramente. La ragazzina, che stava in piedi in mezzo alla strada, pareva sconcertata e Pippi le lanciò uno sguardo sospettoso. «Che espressione strana che hai», disse Pippi. «Che ti succede? Non crederai che io me ne stia qui a raccontar frottole, eh? Se è così, sputa il rospo!» E si rimboccò le maniche con aria minacciosa. «Per amor del cielo», disse la bambina spaventata, «non dico che racconti proprio delle frottole, ma... no, eh? Invece è esattamente quello che sto facendo, racconto tante, ma tante di quelle bugie che la lingua mi diventa blu. Non te ne sei accorta? Credi davvero che un bambino possa vivere senza mangiare da maggio a ottobre? Certo, so bene che si può resistere senza mangiare per 3 o 4 mesi, ma da maggio a ottobre, che assurdità! Dovresti capirlo da sola che è una bugia. Non devi credere a tutto quello che ti dicono». Questa volta la bambina se ne andò, senza voltarsi più indietro. «Che credulona può essere la gente!» esclamò Pippi rivolta a Tommy e Annika. «Da maggio a ottobre, che assurdità!» Poi gridò dietro alla bambina. «No, non abbiamo visto il tuo papà! Non abbiamo visto un solo calvo in tutta la giornata! Ma ieri ne sono passati 17 e a braccetto!» Il giardino di Pippi era davvero incantevole, non molto curato, questo no, ma c'erano prati meravigliosi che non venivano mai tagliati e vecchi cespugli di rose bianche, gialle e rosa, non particolarmente belle ma deliziosamente profumate, e anche parecchi alberi da frutto, e la cosa più bella di tutte, querce e olmi secolari, perfetti per arrampicarsi. Nel giardino di Tommy e Annika c'erano invece pochissimi alberi su cui salire, e del resto la loro mamma aveva sempre tanta paura che cadessero e si facessero male, quindi non si erano arrampicati molto nel corso della loro vita. Ma ora Pippi propose: «Che ne direste di arrampicarci su quella quercia?» Subito Tommy, entusiasta della proposta, saltò giù dal cancello. Annika era un po' più titubante, ma quando vide che il tronco era cosparso di nodi su cui puntare i piedi, pensò che sarebbe stato divertente provare. A un paio di metri da terra la quercia si diramava e in quel punto c'era una vera e propria piattaforma. Non ci volle molto prima che tutti e tre i bambini fossero lì seduti. Sopra le loro teste la quercia allargava la sua corona come un grande tetto verde. «Qui si potrebbe bere il caffè», disse Pippi. «Ora corro in casa a prepararne un po'». «Bravissima!» esclamarono Tommy e Annika battendo le mani. Poco dopo il caffè di Pippi era pronto. E c'erano anche delle girandole alla cannella che aveva sfornato il giorno prima. Pippi si piazzò sotto la quercia e cominciò a lanciare verso l'alto le tazzine da caffè. Tommy e Annika le afferravano al volo. Veramente, ogni tanto una l'afferrava la quercia, quindi due tazzine si ruppero. Ma subito Pippi corse in casa a prenderne di nuove. Poi fu la volta delle girandole. Per un bel po' ci fu un gran volare di dolci, ma almeno quelli non si rompevano. Infine Pippi si arrampicò con il bricco del caffè in una mano e una bottiglia di panna e un barattolino di zucchero in tasca. Tommy e Annika trovarono che fosse il miglior caffè che avessero mai bevuto. Non avevano il permesso di berlo normalmente, soltanto quando erano ospiti da qualcuno. E in quel momento erano ospiti da Pippi. A un certo punto Annika si rovesciò un po' di caffè su un ginocchio. Prima era caldo e bagnato, poi diventò freddo e bagnato, ma Annika disse che non importava. Terminato lo spuntino, Pippi buttò le tazze sul prato. «Voglio proprio vedere quant'è resistente la porcellana che fanno al giorno d'oggi», disse. Sorprendentemente, una tazza e tutti e tre i piattini resistettero e del bricco si ruppe solo il becco. Tutto a un tratto, Pippi decise di arrampicarsi un po' più in alto. «Cose dell'altro mondo!» gridò di lassù. «L'albero è cavo!» Dentro il tronco c'era infatti una profonda cavità che il fogliame aveva celato allo sguardo dei bambini. «Posso venire a vedere anch'io?» gridò Tommy, ma non ci fu risposta. «Pippi, dove sei?» esclamò preoccupato. Allora si udì la voce di Pippi non più proveniente dall'alto, ma da molto in basso. Sembrava arrivare dal sottosuolo. «Sono dentro l'albero e cavo fino a terra! Se guardo attraverso una piccola fessura riesco a vedere il bricco del caffè fuori sull'erba!» «Ma come farai a tornare su?» gridò Annika. «Non tornerò mai più su!» rispose Pippi. «Rimarrò qui finché andrò in pensione e voi sarete costretti a gettarmi da mangiare dal buco lassù in cima, 5 o 6 volte al giorno!» Annika cominciò a piangere. «Perché gemere? Perché lamentarsi?» disse Pippi. «Venite invece qui giù anche voi, così potremo giocare a morire di fame in una tenebrosa prigione!» «Mai e poi mai!» disse Annika. Anzi, per sicurezza scese addirittura dall'albero. «Annika, ti vedo attraverso la fessura!» gridò Pippi. «Sta attenta a non pestare il bricco del caffè. È un vecchio e onesto bricco che non ha mai fatto del male a nessuno. Non è mica colpa sua se è rimasto senza becco!» Annika si avvicinò al tronco e attraverso una minuscola fessura scorse la punta dell'indice di Pippi. Ciò la rassicurò abbastanza, ma era ancora preoccupata. «Pippi!» chiese. «Davvero non riesci a risalire?» L'indice di Pippi scomparve e nemmeno un minuto dopo il suo viso si affacciò dal buco. «Se mi ci metto davvero d'impegno, magari ci riesco», disse scostando il fogliame con le mani. «Se è così facile risalire», disse Tommy, che era sempre in cima all'albero, «voglio scendere anch'io a morire un po' di fame». Disse Pippi, «credo che sarebbe meglio prendere una scala». Si issò fuori dal buco e scivolò in fretta lungo il tronco. Poi corse a cercare una scala. La sollevò sull'albero e la calò nel buco. Tommy aveva una voglia pazza di scendere nell'albero cavo. Era piuttosto difficile arrampicarsi fino all'imboccatura perché era situata molto in alto, ma Tommy era coraggioso. Non ebbe nemmeno paura a infilarsi nella buia cavità. Annika lo vide scomparire e si chiese più volte se lo avrebbe mai più rivisto. Mentre cercava di sbirciare dalla fessura, udì la voce di Tommy. «Oh, Annika! Non puoi immaginare che meraviglia è qui dentro! Devi assolutamente venirci anche tu! Non è per nulla pericoloso ora che c'è la scala, ti assicuro che se solo lo fai anche solo una volta, non vorrai fare altro per tutta la vita!» «Sicuro?» chiese Annika. «Sicurissimo!» disse Tommy. Così Annika, con le gambe che le tremavano, si arrampicò nuovamente sull'albero e Pippi le diede una mano nell'ultimo tratto difficile. Quando vide quant'era buio dentro il tronco si tirò un po' indietro, ma Pippi le strinse la mano e le fece coraggio. «Non aver paura, Annika», udì Tommy che le diceva dallaggiù. «Ora riesco a vederti le gambe, ti prenderò io se dovessi cadere». Ma Annika non cadde. Raggiunse Tommy sana e salva. Un attimo dopo arrivò anche Pippi. «Vero che è divertente qui?» disse Tommy. E Annika dovette ammettere che era proprio così. Tra l'altro non era nemmeno buio quanto aveva temuto, perché dalla fessura entrava un po' di luce. Subito Annika andò a controllare se anche lei riusciva a vedere il bricco fuori sull'erba. «Questo sarà il nostro nascondiglio», disse Tommy. «Nessuno potrà mai sapere che siamo qui, e se qualcuno ci cerca fuori noi li potremo guardare dalla fessura. Che risate ci faremo! Potremmo anche prendere un bastoncino e farlo spuntare dalla fessura per fare il solletico alle persone», disse Pippi. «Così crederanno che ci sono i fantasmi». Questo pensiero li rallegrò talmente tanto che i tre bambini si abbracciarono. In quel momento sentirono suonare il gong che chiamava Tommy e Annika a cena. «Uffa, che noia!» disse Tommy. «È già ora di tornare a casa, ma torniamo domani, subito dopo la scuola». «Allora vi aspetto», disse Pippi. Così risalirono la scala, prima Pippi, poi Annika e per ultimo Tommy. E nello stesso ordine scesero dall'albero, prima Pippi, poi Annika e per ultimo Tommy. Pippi organizza una gita. «Oggi la scuola è chiusa», annunciò Tommy a Pippi. «Ci hanno dato vacanza per la pulizia annuale dei pavimenti». «Ecco, un'altra ingiustizia», esclamò Pippi. «Mai che io abbia un giorno di vacanza per pulire i pavimenti, e dire che ce ne sarebbe bisogno. Basta vedere in che stato è quello della cucina». «Ma del resto», aggiunse dopo averci pensato un po' su, «posso fare una bella pulizia anche senza la vacanza. Anzi, comincerò subito, vacanze o no, e voglio proprio vedere chi me lo impedirà. Accomodatevi qui sul tavolo e non statemi fra i piedi». Tommy e Annika si sedettero docilmente sul tavolo e vi saltò anche il signor Nilsson, che si mise a dormire in braccio ad Annika. Pippi scaldò un pentolone d'acqua che poi rovesciò senza troppe cerimonie sul pavimento. Si sfilò quindi le immense scarpe e le depositò con cura nel cestino del pane. Poi si legò ben strette due brusche ai piedi nudi e si mise a pattinare su e giù per il pavimento facendo ciaf ciaf mentre sfrecciava nell'acqua. «Forse dovevo fare la reginetta del pattinaggio», esclamò sollevando una gamba dritta per aria, urtando la lampada sul soffitto con la brusca legata al piede sinistro e staccandone un pezzo. «Se non altro ho grazia e leggerezza», proseguì scavalcando con un agile balzo una sedia che le tagliava la strada. «Ecco qua, adesso mi sembra abbastanza pulito», disse alla fine togliendosi le brusche. «E non asciughi il pavimento?» chiese Annika. «No, lo asciugherà il sole», disse Pippi. «Non penso che prenderà freddo, basta che si tenga in movimento». Tommy e Annika scesero dal tavolo e raggiunsero la porta d'ingresso, stando bene attenti a non bagnarsi. Fuori il sole splendeva in un cielo azzurrissimo. Era una di quelle stupende giornate di settembre in cui si viene afferrati da una voglia pazza di camminare nel bosco, e Pippi ebbe un'idea. «Che ne direste di prendere il signor Nilsson e di andarcene a fare una gitarella?» «Sì, sì!» gridarono Tommy e Annika con entusiasmo. «Allora correte a casa a chiedere il permesso alla vostra mamma», disse Pippi, «e intanto io preparo il pranzo al sacco». Tommy e Annika la trovarono un'ottima idea. Si precipitarono a casa e poco dopo erano già di ritorno. Pippi era fuori dal cancello col signor Nilsson su una spalla, un bastone da passeggio in una mano e un gran paniere nell'altra. Per un tratto i tre bambini seguirono la strada, ma poi deviarono in un pascolo e presero un bel sentierino che procedeva serpeggiando fra betulle e cespugli di nocciolo. Ben presto raggiunsero una staccionata, oltre la quale si estendeva un pascolo ancora più bello. Purtroppo però, davanti al cancello, si era piazzata una mucca che aveva tutta l'aria di non volersi spostare. Annika le strillò contro e Tommy le si avvicinò coraggiosamente tentando di smuoverla, ma quella non si mosse di un millimetro, limitandosi a fissare i ragazzi con i suoi grandi occhi bovini. Per finirla una buona volta, Pippi posò a terra il paniere, si avvicinò alla mucca e la spostò sollevandola di peso. Piuttosto imbarazzata, la mucca se ne andò pesantemente tra i cespugli di nocciolo. «Pensare che una vacca può essere cocciuta come un mulo!» esclamò Pippi scavalcando il cancello. «E che cosa ne deriva? Che naturalmente i muli cominciano a svaccarsi. Che triste storia, se ci si pensa!» che bello questo pascolo!» gridava Annika incantata, salendo su ogni masso che vedeva. Tommy aveva portato con sé il pugnale che gli aveva regalato Pippi e con quello tagliò dei bastoni da passeggio per sé e per Annika. Veramente si tagliò un po' anche il pollice, ma non gli diede molta importanza. «Forse potremmo anche raccogliere dei funghi», disse Pippi raccogliendo un bell'ovulo malefico rosso. «Chissà se si può mangiare, di sicuro non si può bere, quindi non rimane altra scelta che mangiarlo. Forse si può». Così staccò con un morso un bel pezzetto di ovulo malefico e lo inghiottì. «Si poteva», esclamò soddisfatta. «Bene, ma questo lo cucineremo trifolato un'altra volta», disse, e gettò il fungo oltre le cime degli alberi. «Pippi, cosa c'è nel tuo paniere?» chiese Annika. «Qualcosa di buono?» «Non te lo dico nemmeno per mille corone», le disse Pippi. «Prima bisogna trovare un bel posticino per apparecchiare». I bambini si misero a cercare con foga. Annika trovò un grande masso piatto che le parve potesse fare al caso loro, ma sopra c'era un intenso viavai di formiche rosse e... «In mezzo a quelle non voglio stare», disse Pippi, «perché non mi sono state presentate». «Già, e poi mordono», aggiunse Tommy. «Davvero?» disse Pippi. «Allora mordili anche tu». Ma intanto Tommy aveva scovato un piccolo spiazzo tra due cespugli di nocciolo che gli sembrava perfetto per loro. «No, mio caro, non c'è abbastanza sole perché le mie lentiggini si sentano a loro agio», disse Pippi. «È così elegante avere le lentiggini». Un po' più in là c'era una montagnola facile e divertente da scalare e sulla montagnola c'era uno spiazzo soleggiato come un terrazzino. Si sistemarono lì. «Adesso dovete chiudere gli occhi mentre io apparecchio», disse Pippi. E Tommy e Annika serrarono le palpebre strette strette. Sentirono allora Pippi aprire il paniere e trafficare con degli involti di carta. 1, 2, 19! Adesso potete guardare!» disse finalmente Pippi. Tommy e Annika aprirono gli occhi e gridarono di gioia davanti a tutte le cose squisite che Pippi aveva disposto sulla roccia levigata e spoglia. C'erano ottime fettine di pane imburrato con le polpettine di carne e con il prosciutto, un'alta pila di frittelle spolverate di zucchero, diverse salsiccette scure e 3 budini all'ananas, perché Pippi aveva imparato a cucinare dal cuoco di bordo di suo padre. «Che spasso questa vacanza per la pulizia dei pavimenti!» disse Tommy con la bocca piena di frittelle. «Magari ci fosse tutti i giorni!» «Vacci piano!» disse Pippi. «Non vado mica così pazza per le pulizie. Non dico che non sia divertente, ma non tutti i giorni, altrimenti stufa. Alla fine i bambini furono talmente sazi da riuscire a malapena a muoversi e così rimasero a sedere immobili a godersi il sole. Chissà se è difficile volare, disse a un tratto Pippi guardando il bordo del terrazzino con occhi sognanti. La parete rocciosa era ripida e da lì fino a terra era un bel salto. Probabilmente a volare verso il basso si potrebbe anche imparare, continuò Pippi. Decollare deve essere più complicato, ma sarà meglio cominciare dalla cosa più facile. Quasi quasi ci provo. No, Pippi! Gridarono insieme Tommy e Annika. Pippi, cara, non farlo! Ma Pippi era già in piedi sull'orlo del precipizio. Vola, brutta mosca, vola! E la brutta mosca volò! Canterellò Pippi, e nell'istante in cui disse la parola volò, aprì le braccia e si gettò nel vuoto. Dopo mezzo secondo si udì un tonfo sordo. Era Pippi che era atterrata di botto. Tommy e Annika, sdraiati a pancia in giù, la guardarono terrorizzati. Ma Pippi si rialzò e si spolverò le ginocchia. «Mi sono dimenticata di sbattere le ali!» gridò allegramente. «E inoltre mi sa che avevo troppe frittelle in pancia!» Fu allora che i bambini si accorsero che il signor Nilsson era scomparso. Doveva aver intrapreso una sua gitarella personale. Si ricordavano benissimo di averlo visto seduto a rosicchiare il paniere tutto soddisfatto, ma durante le esercitazioni di volo di Pippi lo avevano completamente dimenticato e ora era sparito. Pippi si arrabbiò talmente tanto che scaraventò una delle sue scarpe in una profonda pozza d'acqua. «Non si dovrebbero mai portare delle scimmie quando si va da qualche parte», esclamò. «Avremmo dovuto lasciarlo a casa a spulciare il cavallo, questo si meritava», concluse, ed entrò a grandi passi nella pozzanghera per riprendersi la scarpa. L'acqua le arrivava alla vita. «In realtà dovrei approfittarne per lavarmi anche i capelli», disse Pippi, e immerse la testa sott'acqua così a lungo che grosse bolle cominciarono ad apparire alla superficie. «Bene, così anche questa volta farò a meno di andare dal parrucchiere», esclamò soddisfatta quando alla fine riemerse. Uscì poi con decisione dalla pozzanghera e si rimise la scarpa. Dopodiché tutti e tre si incamminarono alla ricerca del signor Nilsson. «Avete sentito che bel rumorino mi fa l'acqua addosso mentre cammino?» disse Pippi ridendo. «Il vestito fa clash clash e le scarpe fanno cif cif. È proprio divertente. Secondo me dovresti provare anche tu», continuò rivolta ad Annika che camminava tutta composta con i suoi setosi boccoli biondi, il vestitino rosa cipria e le scarpette di pelle bianca. «Forse un'altra volta», disse Annika giudiziosamente, e continuarono a camminare. «C'è proprio da arrabbiarsi col signor Nilsson», esclamò Pippi. «Fa sempre così. Mi è scappato una volta anche a Surabaya e si è fatto assumere come domestico presso una vecchia vedova». Dopo una breve pausa precisò: «Naturalmente quest'ultimo particolare è una bugia». Tommy propose di dividersi per cercare. Annika all'inizio aveva un po' paura e si rifiutò, ma Tommy le disse: «Non sarei mica una fifona, spero». E Annika naturalmente non poteva tollerare una simile ingiuria. Così i tre bambini se ne andarono ognuno per la sua strada. Tommy si avviò attraverso un prato. Non trovò il signor Nilsson, ma trovò qualcos'altro. Un toro. O meglio, fu il toro a trovare Tommy. E non gli piacque affatto, perché era un toro arcigno e per nulla amante dei bambini. Subito gli si precipitò contro a testa bassa con un muggito terrificante. Tommy emise un acutissimo strillo di terrore che risuonò per tutto il bosco e fu udito anche da Pippi e da Annika. Immediatamente corsero a vedere perché Tommy gridava e quando arrivarono sul posto il toro aveva già acchiappato Tommy con le corna e lo stava gettando in aria. «Un toro davvero poco ragionevole», disse Pippi ad Annika che piangeva disperata. «Non si fa così. Guarda, sta sporcando tutto il vestito bianco alla marinaretta di Tommy. Devo assolutamente far ragionare quello stupido toro». Così infatti fece. Si precipitò dall'animale e lo afferrò per la coda. «Scusami se ti interrompo», gli disse. Poiché stava tirando forte, il toro si voltò, scorse una bambina e gli venne voglia di incornare pure quella. «Ripeto, scusami se ti interrompo», ribadì Pippi. «E scusami se ora in te rompo qualcosa», aggiunse spezzandogli un corno. «Non è di moda quest'anno avere due corna», disse. «Quest'anno tutti i tori distinti portano un corno solo». «O anche nessuno», aggiunse spezzando anche l'altro. Dato che i tori non possiedono alcuna sensibilità nelle corna, il nostro non si era affatto accorto che le sue erano sparite. Si avventò dunque arditamente contro Pippi come se ancora le avesse, ma anche così, se al posto di Pippi si fosse trovato qualsiasi altro bambino, l'avrebbe senza dubbio ridotto in pappa. Smettila di farmi il solletico, gridò Pippi. Non puoi immaginare come soffro il solletico. Ai, ah, finiscila, muoio dalle risate. Ma il toro non smise e alla fine Pippi fu costretta a saltargli in groppa per avere un po' di pace. La pace però non durò a lungo perché al toro non piaceva affatto sentirsi i Pippi sulla schiena. Fece le peggiori evoluzioni per liberarsene, ma Pippi si limitò a serrare le gambe per rimanere seduta. Il toro correva come un pazzo avanti e indietro per il campo e muggiva sbuffando fumo dalle narici. Pippi intanto rideva e strillava e si sbracciava in direzione di Tommy e Annika, che se ne stavano a prudente distanza tremando come foglie. Il toro continuava a girare su se stesso cercando di disarcionare Pippi. «Che bello danzare col mio piccolo amico!» canterellava Pippi sempre solidamente seduta. Alla fine il toro si sentì talmente esausto che si distese per terra desiderando un mondo in cui i bambini non esistessero. D'altronde non aveva mai pensato che i bambini fossero proprio necessari. «Ah, ti metti a fare un pisolino?» disse Pippi amorevolmente. «Allora tolgo il disturbo!» Scese dunque di groppa e si diresse verso Tommy e Annika. Tommy aveva pianto un po' e aveva anche una ferita a un braccio, ma Annika gliel'aveva fasciata col suo fazzoletto, quindi non gli faceva più male. «Oh, Pippi!» gridò Annika tutta su di giri quando la vide arrivare. «Shh!» sussurrò Pippi. «Non svegliare il tor che dorme! Se lo svegliamo ci ridiventa noioso!» «Signor Nilsson! Signor Nilsson, dove sei?» strillò un attimo dopo con voce acuta, senza più badare al pisolino del toro. «Dobbiamo tornare a casa!» E guarda un po', il signor Nilsson era proprio lì, arrampicato su un pino. Si stava succhiando la coda e aveva un'aria terribilmente triste. Per una scimmia così piccina non è affatto divertente venire abbandonata sola soletta in un bosco. Saltò dunque dal pino sulla spalla di Pippi e sventolò la sua paglietta come faceva quando era veramente contento. «Allora, questa volta non sei andato a fare il domestico?» gli chiese Pippi accarezzandogli la schiena. «Ah già, è vero, quella era una bugia», aggiunse. «Però se fosse vero non sarebbe più una bugia», continuò a ragionare. «State a vedere che alla fine è vero che lui ha fatto il domestico a Surabaya. In tal caso so io chi dovrà occuparsi d'ora in poi delle polpettine di carne». Poi si incamminarono verso casa. Pippi col vestito ancora grondante e con le scarpe troppo larghe che facevano cif cif. Malgrado il toro, Tommy e Annika ritenevano di aver passato una splendida giornata e per tutta la via del ritorno cantarono una canzone che avevano imparato a scuola. In realtà era una canzone estiva e ora era quasi autunno, ma a loro sembrò che si adattasse comunque alla situazione. Nel sole caldo dell'estati andiamo nei boschi e per i prati, non ci siamo mai lamentati, cantiamo ovunque andiamo, tra l'ero l'ero là. O giovane, non stare lì, ma vieni a cantare qui. I nostri cuor cantano in cor, nel bosco pieno di splendor. Nel sole caldo dell'estati cantiamo ovunque andiamo, tra l'ero l'ero l'ero l'ero l'ero l'ero là. Anche Pippi cantava con parole diverse. Io vado nei boschi e per i prati facendo dei balzi sgangherati e i miei piedi fanno cif, cif ciaf, cif ciaf, cif ciaf. Muovo con brio il piede mio e fa un tremendo sciabordio. Povero pie, il piede mio, povero pie, il toro le, viva le aringhe col purè. Nel sole caldo dell'estati i miei piedi fanno cif, cif ciaf, cif ciaf, cif ciaf. Valentina Carnelutti ha letto Pippi Calzelunghe di Astrid Lindgren. Regia di Luigi Iavarone. A cura di Fabiana Carobolante, Jacopo De Bertoldi, Lorenzo Pavolini e Chiara Valerio. Tutte le puntate su Rai Play Radio. Ad alta voce è un programma di Rai Radio 3.